Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Soldi che vanno, soldi che vengono, soprattutto che vanno, dobbiamo dire, di questi tempi, anche con la nuova legge di stabilità del governo, disegno di legge, quindi non è ancora entrato nulla in vigore, sono proposte, ma sono proposte che così, da una parte danno qualche buona notizia, dall'altra però lasciano molto perplessi. Perplessa, ad esempio, è l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori. Bentornato Carlo Garofolini. Sì, ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori e... soldi che vanno. Sì, esatto, vanno, e le perplessità riguardano l'IVA ma anche altre cose, perché se è vero che da una parte si abbassano le aliquote IRPEF, le due più basse si abbassano di un punto, però l'IVA al 1° luglio aumenterà dell'1%, ma non c'è solo questo. Certo, il fatto di aumentare l'IVA di un punto percentuale, portarlo dal 21 al 22, certamente equivarrà a un maggiore sborso in termini economici per tutte le famiglie, in particolar modo perché sappiamo che quando andiamo a aumentare l'IVA dal 21 al 22, e in questa volta hanno portato anche quella dal 10 all'11, certamente tutti i beni che normalmente le famiglie o le persone vanno ad acquistare, dai medicinali ai generi alimentari, a quelli tecnologici, alle auto, alle bollette, ai carburanti e quant'altro ci possa venire in mente, aumenteranno dell'1%. Ovviamente con un aggravio di spesa, la benzina, eccetera, no? E l'IVA la pagano tutti, mentre l'IRPEF non la pagano tutti. Allora, la rabbia è che proprio pochi giorni fa stavamo commentando il quinto aumento delle bollette per effetto delle speculazioni del petrolio che ci sono state in questi giorni, con un aumento nell'ultimo anno di 400 euro sulle bollette dell'energia elettrica e del gas, e come ha detto il quinto aumento che è cominciato proprio dal 1° ottobre. Non abbiamo fatto tempo a parlare di aumenti, che improvvisamente il governo ha pensato bene, dopo aver parlato tanto di spending review e quindi aver indotto i consumatori a fare tanti sacrifici per evitare lo scongiurato aumento delle tariffe, e nella speranza di ricevere una legge che potesse dare uno sviluppo al paese e salvaguardare un po' l'occupazione, soprattutto nei confronti dei giovani, invece ci ritroviamo a parlare di aumento di prezzi e dell'IVA, e poi andremo a ragionare su quello che è questo pseudo sgravio di 1% dell'IRPEF. Allora, partiamo proprio da questo. In busta paga, appunto, i lavoratori dipendenti pagheranno meno, quindi avranno più netto in busta sostanzialmente, però il rischio, almeno questo, almeno fino al 30 giugno 2013, poi però entrerà l'aumento dell'IVA. Allora, così come è impostato, ci sarà un aumento che per i redditi medi, e parliamo redditi compresi dai 28.000 ai 55.000, comporterà un aumento di circa 280 euro all'anno, quindi diviso per 13 dobbiamo circa fare un calcolo di 20 euro scarsi al mese, e parliamo di redditi fino a 55.000 euro, e parliamo quindi di paghe così pesanti come qualcuno ha cercato magari di voler far credere. Però è anche vero che paradossalmente coloro che prendono poco, cioè prendono meno di 7.500-8.000 euro all'anno, fondamentalmente non riceveranno neanche un centesimo di sgravio, perché questi non pagano IRPEF, quindi non sono andati a dare una mano a coloro che prendono poco, sono andati a dare qualcosina invece a coloro che prendono qualcosa, per ripetere un termine, perché io dico comunque qualcosa. Poi per chi certamente avrà un reddito superiore ai 55.000 euro, questo 1% assumerà certamente un valore diverso, nell'ordine magari di 30-35 euro al mese. Certo, ma lì parliamo anche di cifre in cui magari i 30 euro non fanno differenza, mentre la possono fare su redditi più bassi, ovviamente. Beh, certamente, pensiamo solo a un calcolo matematico, giusto per capire come si è mosso il governo. Il governo ha contato, diminuendo di un punto percentuale l'IRPEF, di spendere 5 miliardi di euro. Quindi spendere perché? Perché avrà un meno introito derivato appunto da questo abbassamento dell'aliquota di 1% sui primi due scaglioni. Invece, aumentando l'IVA di un punto, ha calcolato di avere un introito di oltre 7 miliardi di euro, per cui capiamo già come le due manovre che ha fatto il governo non sono manovre per dare qualcosina, ma sono per sì dare qualcosina da una parte, ma prendersi molto di più dall'altra. Un'altra voce di cui si sta discutendo e appunto è e sarà in discussione in Parlamento prima dell'approvazione è quella delle spese detraibili fino a 3.000 euro e non oltre. Sì, questa è una cosa che ancora mi ha fatto sdegnare ancora di più. Perché? Perché se comunque l'aumento dell'IVA al 22% è un già valore molto alto che andremo a subire tutti e su tutto, e come ho detto su tutto vuol dire dai generi alimentari alle medicine e quant'altro. E per quanto riguarda, come detto, il limite alle detrazioni, questa è una cosa che mi preoccupa moltissimo. Perché? Perché andiamo in un senso contrario rispetto a quello che è una lotta all'evasione. Perché? Perché se prima si poteva portare in detrazione, per esempio, spese mediche di un certo importo e poter beneficiare, togliere la franchigia del 19%, adesso il governo ha posto un limite di 3.000 euro sulla detraibilità delle spese, quindi questo fa sì che quando una persona, una famiglia ha superato quel tetto di 3.000 euro, certamente non ha più senso neanche farsi fare una fattura, e questo certamente è molto, manifestiamo una nostra criticità perché va contro quello che sono dei presupposti che invece fino ad oggi il governo ha cercato di farci credere che invece aveva intenzione di contrastare, ed è l'evasione. E questo vedremo come evolverà nel dibattito parlamentare e anche nell'opinione pubblica. In questa legge di stabilità avete notato altre voci così un po' critiche? Beh, prima di parlare di qualche altra voce, continuo a fare dei piccoli dati su quella che è stata un'elaborazione che velocemente l'Adico ha voluto dare per quanto può andare a incidere questo aumento dell'IVA dell'1% alle famiglie, con un calcolo che alla fine ha detto che su quella che è una media di una famiglia considerata di 2,7 componenti, questo aumento di un punto percentuale comporterà un costo di circa 300 euro all'anno. Poi sappiamo che noi in Italia siamo fenomenali quando dobbiamo applicare degli arrotondamenti per eccesso, quindi dal punto di vista mio, sinceramente, credo che questi 300 euro potranno diventare ancora più rilevanti. Poi un'altra cosa di cui mi è dispiaciuto leggere, perché comunque è una cosa che stiamo anche noi analizzando in queste ore, è certamente l'ennesimo taglio alla sanità, quando sinceramente credo che è un settore già che è stato falcidiato abbastanza e di cui i consumatori e le famiglie, oltre a vedere i maggiori costi, certamente ne hanno dovuto fare anche le maggiori spese in termini di servizi, di liste d'attesa e di carenza di servizio. Queste dunque le proposte nel disegno di legge, e poi sarà il dibattito parlamentare anche con i tempi che diventano sempre più stretti, visto che questo governo andrà a scadenza con la prossima primavera. Vedremo come proseguirà il dibattito, ma ci torneremo sopra evidentemente anche nelle prossime settimane. Intanto grazie all'Adico, a Carlo Garofolini, e a presto. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti e buon fine settimana per coloro che avranno modo di poterne beneficiare per effetto degli nuovi aumenti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.